Ciao. YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. Di Marta Cagnola e Daniele Bellasio, ma Marta Cagnola questa volta è sola, che fa anche rima, anche se non vorrei che lo facesse, perché Daniele Bellasio è a un evento molto molto bello, tra poco ci faremo raccontare tutto, perché cioè l'ho lasciato andare, gli ho permesso di andare, ma solo perché l'evento è molto bello e ci sarei andata volentieri anch'io, ma almeno insomma scoprirà lui tante cose interessanti anche per noi. Tra qualche minuto lo recuperiamo al telefono, sperando che si senta bene, perché i conduttori di Radio 24 hanno sempre molto da penare con i co-conduttori al telefono. Vabbè, insomma, tra qualche minuto ce l'avremo, ma intanto io vorrei cominciare con un po' di tormentoni. Allora, abbiamo sentito quali sono quelli nuovi usciti questa settimana, ma secondo me, visto che noi in RadioTube parliamo di quello che fa davvero tendenza, io voto. Non so se Roberta in regia è d'accordo con me, ma secondo me quello che ha davvero spaccato questa settimana è questo. Hai presente la luna e sabato sera? Intendo quella vera, intendo quella vera. Hai presente le stelle, le torri gemelle? Più. E se ti parlo di calcio? E se ti suono un po' il banjo? Dici che sono depresso, che non sto nel contesto, che profumo di marcio. Ma se ti porto nel bosco, mi dici portami in centro, perché lì non c'è campo, poi fuori di testa come l'ultima volta. Siamo l'esercito del sé. In carne ed ossa. Tu mi manchi in carne ed ossa. Oggi la canterò a Daniele Bellasio. Vabbè, insomma, facciamo. Ce l'abbiamo già? L'abbiamo già recuperato al telefono? Ce l'abbiamo, Daniele Bellasio. Ciao, Daniele. Ma davvero? Ti stavo cantando. Mi manchi. Che ma poi. Vedi. No, dimmi. Che strano averti al telefono. Non mi piace. Torna. Beh, almeno stavolta mi hai risposto, visto che prima non mi hai risposto. No, ma dai, ma mi chiami mentre sono in diretta, ma non lo so. Vabbè, io. Ma ogni tanto c'è la pubblicità, tu poi sai fare tante cose, sei multitasking. Di solito quando sono lì in studio contemporaneamente fai un pezzo per la borsa, trucchi, sì, è vero. Parli, quindi insomma vabbè. Sì, è vero, è tutto vero. Sì, però diciamo che proprio mentre sono, cioè posso fare più cose magari mentre prepariamo la trasmissione, ma diciamo che mentre sono proprio in diretta non è che ti posso rispondere. Sì. Poi c'è allora Enrico Ruggeri, che è stato molto sincero, e guarda che è un libro abrasivo, cioè davvero io sono rimasta. Vabbè, cioè ma non è facile essere così sì, non è facile essere così sinceri, sì, un po' con se stessi, un po' con gli altri. E poi abbiamo parlato anche di cose divertenti, abbiamo parlato con Costanza Rizza, Casa d'Orsogna, magari non so se ci hai sentito perché adesso ti stavi preparando anche tu per venire in diretta, ma del fatto che adesso si cucina il cibo per postarlo su Instagram, e lei, non sapendo cucinare, fa le acque aromatizzate, perché è il fenomeno di Instagram del momento. La canzone L'esercito del selfie, che è quella che secondo me questa settimana è stata la ma più. Ma non è sotto il sole di Riccione, no. Abbiamo messo anche Riccione, sei un de giornalista. No, Tommaso Paradiso è un personaggio, ma poi visto che parliamo di social, come li utilizza lui. Sì, cioè, bravissimo, sono, poi con le stories tra di Instagram. L'Oscar sì. E la denuncia penale. Sì, lui oscilla. Senti, no. Visto che abbiamo parlato di dei giornalisti, questa settimana il mio personale Oscar di comprensione nei confronti dei dei giornalisti va ai dei giornalisti del TG5. Che hanno fatto? Vabbè, mostriamolo insieme alla radio. Vai. Ci scusiamo. scusiamo con i telespettatori, ma in questo momento abbiamo dei problemi tecnici, del resto siamo in diretta, problemi che potrebbero ripercuotersi nel corso di tutta questa edizione del telegiornale, quindi proviamo a andare avanti. Da qui la decisione di trasferire la giovane in coma dopo un incidente. Ci scusiamo ancora per questo disagio, andiamo avanti con le altre notizie del giornale perché siamo tornati nei luoghi del terremoto, in particolare nelle Marche. Ecco, mi dicono in questo momento che non è pronto neanche questo servizio, ci proviamo, ecco. Le grigie immagini di interi... Allora, ci scusiamo ancora, andiamo avanti. Sto male e parliamo io per lui, di Esselunga. Gli eredi hanno finalmente trovato un accordo che permetterà di chiudere il capitolo sulla successione del gruppo. Questo non, non è non pronto ce la neanche facciamo questo neanche servizio, con questo. Ci scusiamo con i telespettatori, in questo momento andiamo allora con la pubblicità e proviamo a riprendere con le notizie subito dopo, grazie. E non ce l'hanno fatta, no, ma è una roba tremenda. Allora, io prima che abbiamo perso la linea con Francesco Chignola sono andata avanti a parlare per 3 minuti da sola, perlomeno sai, in radio... Cioè sì, vai avanti a parlare e poi soprattutto una radio come questa che non è che dici mettete un disco, ciao, cioè qui devi andare avanti a parlare, ma in TV che sono lì tutti che ti guardano. Però sai Marta, io penso ogni tanto che i telespettatori siano sempre molto più benevoli e pazienti di noi stessi, cioè nel senso che loro se l'errore o il problema tecnico, e il problema tecnico per definizione è in buona fede, cioè non dipende da nessuno, ma lo perdonano alla grande, cioè si rendono conto benissimo, molto... invece noi, giustamente, per fortuna, fa parte dell'essere professionisti, siamo, viene un panico, peraltro anche questo conduttore è bravissimo a non farlo. Ma che bravo, che bravo! Viene un panico che il telespettatore, tutto sommato, non ma magari il telespettatore dice, ma sì, all'edizione delle 13 ci va, cioè vado a farmi il caffè sì, intanto. Tu sì, invece sei lì e non sai veramente che pesci prendere. Poi, sul serio, grandissima ammirazione per il collega televisivo, perché ti stanno anche guardando tutti in faccia. Quindi non è che tu intanto fai dei gesti in consulti come li faccio io in regia, che sembra che sto facendo atterrare un aereo. Cioè, sì, no, però è perché tu sei un po' preso a simbolo e allora sono lì tutti a vedere come tu reagisci all'imprevisto, no? Appunto, certo, se ti fai prendere dal panico è la classica situazione in cui il tutto peggiora, diventa notizia il panico che ti ha preso. Chissà, che, chissà che parolaccine sono. No, sono... ci sono certi direttori che di fronte a queste cose, come sappiamo, diciamo... No, però invece... Insomma, succede. Allora, Daniele, facciamo una cosa. È curiosa la cosa che giustamente hai detto tu. Non ci avevo mai pensato che a Radio 24 un panico del genere è molto più grave che nelle altre radio, perché non puoi dire metti l'ultimo dei Pink Floyd o l'ultimo dei giornalisti. Cioè, l'ultimo dei Pink Floyd non è proprio un esempio. Porta, comunque, intanto... No, nel senso che non è che neanche nelle altre radio, cioè un imprevisto comunque crea dei problemi. Però, vabbè, però alle brutte... Metti Giorgia, credo, no? Alle brutte una roba metti. No, no, noi andiamo avanti. Sì, alle infatti, brutte non puoi mandare la BC. No, alle brutte ho sempre da raccontare, non so, ieri sera sono tornata a casa, è successo quello, posso raccontare cose. Io alle brutte, se non ci fossi tu per esempio, alle brutte, che faccio? No, io posso andare avanti veramente 6 ore a raccontare anche tutti i fatti miei, non ho problemi. Allora, sono le 17:15 proprio in questo istante. Facciamo che diamo la linea al traffico e poi ti chiedo dove sei e perché? Ma sono in un posto stupendo, bellissimo. Lo so. Allora, ho 2 motivi di invidia, 3. Perché sei in un posto bellissimo, perché segui un evento molto interessante perché ho un ospite pazzesco. Esatto, perché sei lì con lui e c'ho un'invidia che mi rode proprio. Però nell'altra stanza, perché tu che sei una scienziata della radio mi hai detto che funziona meglio se siamo in diretta, siamo assieme ma in 2 stanze separate. Dobbiamo proprio raccontare tutto. Dobbiamo raccontare tutto agli ascoltatori. Guarda, niente, sveliamo tutto. Dai, traffico e poi ancora insieme. YouTube. Allora, fatemi dire 2 retroscena. Uno, che durante la pausa, Daniele, io e Roberta stavamo ridendo per il tuo ultimo dei Pink Floyd, perché l'ultimo dei Pink Floyd non si sa come ti è venuta. Tu dici che sono rimasto un po' indietro. Ah, beh, vabbè, filino, vabbè. E poi, perché mia cugina Alessandra, ciao Ale, mi ha scritto su WhatsApp che lei dice: gli spettatori, quando succedono queste cose dei telegiornali che non parte niente, non funziona niente, si divertono da morire. A lei scoppia la ridarolla, come si dice dalle mie parti. Sadici! Sadici! Sì, No, ma non sono tutti statici come tua cugina, è ovvio, è tua cugina, quindi avrà un po' della tua cattiveria. Certo. Ma in realtà no, ma in realtà invece io... No, comunque, no, io mi sento io. No, a me viene l'ansia. Secondo me hanno perdonato persino il fatto che ho detto l'ultimo dei Pink Floyd. Che ridere, no, no, guarda, veramente eravamo alle lacrime io e Roberta. Facciamo un po' i seri. Sì, spiegami dove, spiegaci dove allora, sei e perché. Allora, io sono in un posto bellissimo che si chiama Grotta Mare, è in Abruzzo, un posto veramente molto, molto, molto, molto bello. E qui ogni anno da 4 anni c'è un meeting che si chiama, quest'anno si intitola Siamo tutti Marche. Sono già stato corretto, ho detto Abruzzo perché in realtà siamo vicini. Ma infatti io non volevo correggerti, esatto. Però dicevo, ma secondo me nelle Marche però... è entrato, non lo posso dire o lo posso dire l'ospite, è entrato nella stanza, io già avevo capito che avevo fatto una gaffa, ma perché stavo controllando una... tentando di fare il multitasking, ma poi in geografia sono sempre stato abbastanza un disastro. Comunque c'è una grotta mare dove, in posto bellissimo, c'è un mare stupendo, dietro ci sono delle colline vicino a San Benedetto del Tronto, quindi l'errore si aggrava perché si capisce che sono anche vicino a una città importante. E niente, da 4 anni c'è un meeting che si chiama, diciamo così, dei giornalisti cattolici e non, e è un meeting che affronta il tema delle nuove tecnologie con un piglio che a me piace, cioè non il piglio difensivo, preoccupato, le nuove tecnologie fanno male al giornalismo, all'informazione, certo ci sono dei rischi, però ci sono anche tante opportunità. Da questo punto di vista mi è sempre piaciuto e io da 4 anni, tranne l'anno scorso che non sono potuto venire, ci vengo e ci vengo volentieri. E in particolare, se non so, la tua scaletta che io non ho visto come sempre, prevede che lo dica adesso o dopo? Allora facciamo una cosa, facciamo sentire un pezzetto di quello che lui combina, perché lui non è solo, è anche un personaggio mediatico, è anche un conduttore televisivo, e allora lo introduciamo così. Alla pagina del Vangelo che abbiamo ascoltato oggi non è come il Natale, come la Pasqua che ci racconta qualcosa. Viene preso un brano di un dialogo tra Nicodemo e Gesù, e in questo un po' emerge qualche caratteristica della Trinità, che peraltro non è che dobbiamo cercare tanto di spiegare, perché in sé il mistero della Trinità è anche abbastanza semplice. Cioè Dio ci ha detto... Allora lui andrà in onda tra poco in realtà, se non sbaglio, perché lui è in onda sabato pomeriggio su TV 2000, il Vangelo della Domenica commentato da lui è tutta un'altra cosa, lui è davvero bravo in televisione, certo, perché è un bravissimo comunicatore, ma è una forza della natura sui social. Nella sua bio di Twitter c'è scritto «Sono un prete felice» e quindi secondo me questo è il massimo. Io sono contenta di avere al Sabato del Villaggio, o meglio a RadioTube, nello stesso edificio di Daniele Bellasio, ma in due stanze diverse perché li ho obbligati a non stare vicini, Don Dino Pirri. Ciao Don Dino! Ciao, ma io mi sono preoccupato perché dico hanno portato Bellasio in parrocchia da me e poi hanno invitato Vasco Rossi invece di me, perché da tutta la premessa avevo... pensavo fosse Vasco Rossi l'ospite. Senti Don Dino, già ha detto che Grotta Mare in Abruzzo, dicevo ma forse ho sbagliato io, però fa niente. Ma perché c'è la gatta che gli graffia le gambe, allora forse ti tratto. Allora, la gatta è ormai un personaggio notissimo in rete, perché la gatta di Don Dino è ormai personaggio mediatico anche lei, Don Dino. Sì, sì, Maddi, la migliore amica di Gesù. Già ci siamo capiti, già ci siamo capiti. Io infatti ho detto subito a Daniele, ma su che binari impostiamo la conversazione con Don Dino? E giustamente Daniele dice, cioè Don Dino è un genio in rete. Daniele, tu che ti occupi, tra le altre cose, anche di online, di social, di costruzione di un discorso in rete, cioè Don Dino è top. Assolutamente, intanto mi fa piacere dire che sono... questa parrocchia molto bella, Madonna della Speranza qui a Grotta Mare, Don Dino me l'ha mostrata, me l'ha fatta vedere, ma io sono convinto che il suo modo di utilizzare i social network, spero, come dire, di azzeccare l'interpretazione, è il modo molto efficace di fare, di svolgere la sua missione, che poi è quella di sacerdote, di parroco, nel senso che, non so, io vi invito a guardare la sua timeline di oggi, no? E diremmo noi un po' Twitter maniaci, è in una forma strepitosa, cioè a un certo punto fa un tweet dicendo: ma in che senso si mette il sale nella lavastoviglie? E due o tre tweet dopo dice: sono ateo, ma ci riesci sempre. Cioè, riesce nel giro di 3-4 tweet entrare nella vita quotidiana di una persona, sia dal punto di vista dei grandi dilemmi della lavastoviglie. Ricordo peraltro che Come si aggiusta una lavastoviglie è stato il pezzo più letto del New York Times 2 o 3 anni fa, quindi stiamo parlando di cose che sono nella vita di tutti i giorni, come esattamente la fede o no di una persona, e quindi come esattamente il tweet successivo, cioè sono ateo ma ci riesci sempre, che sono l'altro grande dilemma. Noi siamo fatti di questa cosa qua. Twitter ce li mette vicino in 2 o 3 momenti, come dire, anche ravvicinati, però siamo questa cosa qui noi persone, e quindi credo che il suo modo di utilizzare Twitter sia il modo molto efficace di porre contemporaneamente domande che riguardano il quotidiano e l'eterno, ecco. Don Dino, è tutto studiato? Cioè tu sei un... No, non ho detto questo. No, la grandezza è no. Che ma riesce sì. Con la sua personalità. Perché io invece sono cattiva e dico subito: Don Dino, è tutto studiato? Allora, innanzitutto vorrei specificare che cattolici è Bellasio, io sono e non... Perché vedi che lui la sa meglio, no, cioè, semplicemente io ma magari ho la cucina nuova che ho appena sto inaugurando, la lavastoviglie non l'ho mai messa in funzione, ho letto le istruzioni che bisogna mettere il sale nella lavastoviglie, cioè grande sorpresa oggi, è successo oggi, e quindi a me piace moltissimo anche quando fai parroco story, cioè ci fai scoprire che a volte noi pensiamo che le vite degli altri in genere ci siano molto lontane, e invece dietro un account di Twitter, ma anche dietro alla figura di un prete, c'è una vita. Sì, io ad esempio ho concluso ieri la giornata, siccome abbiamo Emanuele, un mio parrocchiano, che questa sera diventa diacono, allora ieri abbiamo fatto una veglia di preghiera e incentrata sulla Samaritana, e adesso non sto a fare la predica, però... La Samaritana cerca insomma a che fare con un pozzo e con dell'acqua, e io ieri sera ero anche stanco e ho fatto un tweet dicendo, mettendo in evidenza il fatto che io avevo sete ma la gente continua a voler trovare l'acqua attraverso di me, e questo a volte è abbastanza impegnativo, insomma il prete deve dare le risposte a tutti ma c'ha anche un bel carico di domande da parte sua che non sempre riesce a svolgere. E credo che sia onesto raccontare la vita in tutte le pieghe, poi qualche volta anche ridendo. Ieri stavo tornando dal meeting dei giornalisti cattolici in bicicletta, io prima di arrivare qui in chiesa c'è una bella salitella, erano 2:30 del pomeriggio, beh, appena arrivato ho scritto un tweet a tutti quelli che mi hanno visto passare in bicicletta, volevo rassicurarli, tutto a posto, insomma. Don Dino, quante domande ti arrivano? Cioè, tutti fanno delle domande perché vogliono avere delle risposte da un prete, ma in rete te ne arrivano tante? Sì, però a me piace accogliere le domande. Innanzitutto io in rete metto le mie domande, non per condividerle. Poi mi piace quando arriva una domanda, mi piace farmene carico, nel senso di condividerla, non di trovare io una risposta, perché chi sono io per trovare le risposte alle domande degli altri? No, è un tema. Ma io, Marta, prima della trasmissione, mentre giravamo qui nella parrocchia Madonna della Speranza, chiedevo a Don Dino se si rende conto del fatto che ovviamente può essere preso a modello. Se uno guarda come in rete parla Don Dino, ne capisce subito l'efficacia, proprio perché, a differenza di come giustamente tu chiedevi, appare ed è molto spontaneo. Lui in realtà mi diceva che dal dialogo su Twitter è riuscito in qualche modo anche a trarre insegnamenti su come parlare, come dire, di persona nel suo lavoro quotidiano, nel suo incontro quotidiano con la comunità. Quindi, al contrario, un po' schernendosi del fatto che non vuole sembrare un guru, ecco, non usiamo questa parola che è terribile, in realtà Twitter lo aiuta anche per parlare e per essere più efficace nel dialogo quotidiano. Questo l'ho trovato molto interessante. Perché ti ha insegnato a trovare delle immagini efficaci, brevi, la sintesi? Perché, Don Dino? Mi ha insegnato a trovare, sì, una sintesi fatta di oggetti a volte, di oggetti da raccontare, di cose, di realtà quotidiana che ci dice anche qualcosa di più del quotidiano e della realtà, ma soprattutto mi ha insegnato ad ascoltare. Sembra banale, no? Che uno debba predicare dopo aver ascoltato la parola di Dio, ma anche la vita, o che uno debba comunicare qualcosa dopo aver ascoltato gli altri, però non era proprio così scontato nella mia vita. Ho imparato questo e mi sono ricordato che non a caso San Paolo disse una volta, scrisse anzi, che la fede nasce dall'ascolto. Interessante, certo. No? Non nasce dalle preghiere la fede o dalle chiacchiere, nasce dall'ascolto. Dondino, tu la cosa, sì, posso dire, sì, Marta, Daniele, sì. Cioè non casualmente, perché nulla è casuale in questo argomento, alla fine di questo meeting dei giornalisti cattolici non qui a Grottamare, il messaggio che è emerso, che è stato ben sintetizzato da una delle organizzatrici, è che in un mondo così intimamente super connesso, come ha detto Papa Francesco, quello che è importante che i giornalisti devono ricominciare a fare, i giornalisti, gli editori, gli uomini della comunicazione, è proprio ascoltare, esattamente la stessa cosa che stava dicendo prima Dondino. Questa è una grandissima verità. Dondino, tu usi tanto Twitter, sperimenti un po' con Instagram, ma la cosa che più mi fa impazzire è quando ti lanci con Telegram. Cioè che fai i canali di Telegram, il canale dell'Avvento, il canale della Quaresima, cioè che utilizzi un medium piuttosto particolare come Telegram, che è, lo ricordiamo, sia un servizio di messaggistica affine a WhatsApp, sia uno strumento che permette anche di creare delle liste alle quali mandare dei messaggi. Il canale di Telegram dell'Avvento o della Quaresima è strepitoso. Sì, anche se poi non sono proprio fedelissimo, che a metà della Quaresima o dell'Avvento mi perdo, perché poi c'è una chiesa fatta anche di persone, sì, diciamo, tocca anche lavorare. Però mi fai pensare che ieri una catechista, stavamo finendo l'oratorio, non mi ha detto domani non posso venire all'incontro, mi ha detto sai, ho il telefono un po' carico, ho dovuto togliere Telegram. No, vedi, perché sì, diciamo che in parrocchia alcuni hanno cominciato a usare i social proprio dopo che sono arrivato. Non ho dubbi. Però ho dovuto anche fare qualche incontro per dire di non esagerare, perché a volte credo che questa ipercomunicazione sia un'illusione, perché di fatto parliamo e dall'altra parte non c'è nessuno che ci ascolta, oppure non ci si capisce, ci si fraintende, quindi bisogna essere... Però sì, insomma, mi piace provare dei luoghi nuovi, andare a cercare là dove non andrebbe nessuno. Fantastico, Dondino, sono contenta di averti disturbato, è stata un'idea di Daniele Bellasio e io sono molto molto contenta che ce l'abbia avuta. Dondino, vorrei chiederti altre mille cose, purtroppo il tempo è finito. Tra le mille cose che vorrei chiederti è come mai tu hai un sacco di bellissime ragazze che ti seguono su Twitter, ma non te lo chiederò perché proprio tutte fan di Dondino. Te lo posso dire comunque, sì, perché? È facile, ma io sono bellissimo. Hai ragione, scusa, no è vero. Dondino, ti adoro. Allora, per seguirlo, di Dino Pirri, però cioè, se cercate Dondino Pirri lo trovate senza problemi. Dondino, prestissimo, spero, un abbraccio grande. Ciao, io presto verrò su. Dai, ti assicuro. Ecco, sì, allora sì. Ti aspettiamo qua. Tanto ciao. La strada la sai, sei anche venuto. La strada per arrivare, certo, la sai. Bene, abbraccio grande. Buona domenica a tutti. Grazie, Dondino. Daniele, ci sei ancora? Sì, sono qui, nelle Marche, non in Abruzzo. Conoscendoti questa cosa ti ha fatto... Ti ha fatto malissimo. Conoscendoti, non ci dormi stanotte. Non ci dormi stanotte. Allora, facciamo una breve pausa perché abbiamo un altro argomento estremamente interessante che riguarda la rete. Un libro che io mi sono letta nelle ultime ore e mi ha appassionato veramente tanto. Dai, una breve pausa, poi saremo ancora insieme. Tra poco... Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta. Radio Tube. Allora, intanto. tanto. A Roberto che ci scrive su Twitter che questa volta io e Daniele stiamo facendo troppo casino, dico sì, effettivamente, ma non so, è la lontananza che, beh, sì, è come il vento, si sa, ma anche il fatto che io sono qua e lui è là al telefono, vabbè, stiamo facendo un po' di confusione. Maledetta primavera, estate, maledetta estate. Poi volevo farmi un po' di pubblicità, intanto che Daniele è lontano, perché domattina, 140 caratteri dopo il giornale radio delle 8, io sono molto orgogliosa di avere un'intervista favolosa che abbiamo fatto, favolosa non perché l'ho fatta io, ma perché è favolosa lei, con la straordinaria Tilda Swinton, attrice, premio Oscar, protagonista di un film che sta per essere rilasciato, come si dice, released su Netflix, che si chiama Okja. Domattina, 140 caratteri, Radio 24, ma anche sul sito del Sole 24 Ore c'è il video, io sono molto molto molto contenta, vedrete quanto è bella Tilda Swinton e quanto io sembro un ragnetto al suo confronto, ma lei è una favolosa superstar. Allora, Daniele, ci sei ancora? Assolutamente. Allora Daniele, vorrei chiederti se ti ricordi di questo straordinario personaggio. Abbiamo una clip, abbiamo un paio di clip, Roberta, vai. Così optai per il mare. E così un giorno me ne uscì da casa, me ne andai a Genova e mi imbarcai su un cargo che batteva bandiera liberiana. Che cosa trasportasse quel cargo non l'ho mai capito. In quei 2 anni ho fatto di tutto. Mi sono drogato. A proposito, se vuoi... insomma, sono stato con le donne. Con gli uomini. Come con gli uomini? Tutto. Che grande figlio di puttana. Un bel giorno, senza dire niente a nessuno, me ne andai a Genova. E mi imbarcai su un cargo battente bandiera liberiana. Feci 2 volte il giro del mondo. Non riuscii mai a capire che cazzo trasportasse quella nave. Ma forse un giorno lo capii. Droga. Beh ragazzi, a parte il fatto che tout se tient, tutto torna, perché poi parleremo anche degli stadio, perché beh succederà qualcosa di molto importante il prossimo sabato, quindi un po' di profumo di stadio ce l'avremo anche in RadioTube. Borotalco, Daniele, cosa ti evoca? Guarda, il genio, come tutti sanno, sta nella bandiera liberiana, no? Quando tu dici cargo, battente, bandiera liberiana, suona quasi come i cocci aguzzi di bottiglia della poesia. Cioè proprio è una frase che uno ricorderà per sempre. Manuel Fantoni. Allora, cosa possiamo dire? Che Manuel Fantoni è uno dei più grandi mitomani degli ultimi decenni? Io non lo so se è così, ma sicuramente un pensiero in merito ce l'avrà. Una bravissima autrice di un libro che è apparso in libreria il 15 giugno, edito da Fandango. Io l'ho letto nelle ultime ore e me lo sono letto tutto, l'ho divorato, perché ragazzi, non è che io dico, cioè è veramente bello, fidatevi, lo so che io a volte mi faccio prendere l'entusiasmo, ma in questo caso davvero fidatevi. Il titolo adesso sembra un po' blasfemo perché abbiamo appena avuto Tondino, però il titolo è Non avrai altro Dio all'infuori di te. Lei è Chiara Lalli, ciao Chiara. Ciao, hai appena alimentato la mia mitomania. Esatto. Allora Chiara, una prefazione di Carlo Verdone, non a caso, per il tuo libro sui mitomani. Fantoni, Verdone, adesso non so neanche come lo dobbiamo chiamare, comunque lui, colui che ha incarnato tutti i più mitomani meravigliosi, teneri, più incattiviti, se pensiamo poi all'evoluzione, forse non, magari non proprio così lineare, no? Però da Sergio Benvenuti, Manuel Fantoni, a poi Armando Feroci e Gallo Cedrone. Però ce li ha raccontati intanto con un sacco di anni d'anticipo, questo certo. È anche un dato molto interessante. E poi con questa tenerezza, per cui il cargo, ovviamente, insomma, io sarà la 300ª volta, come tutti noi che lo sento, ogni volta mi viene da ridere, ho le lacrime agli occhi, ed è veramente un sottotitolo, una didascalia delle nostre vite, delle nostre adolescenze e delle nostre vite. E ormai poi i suoi racconti così fantasiosi e narrativi sono prossimi a essere documentari, no? Quando penso all'ultimo comizio, al comizio finale di Gallo Cedrone, politico, no? Che sto Tevere, sto fiume che ci volevamo fare, lo asfaltamo. In realtà adesso, se guardiamo appunto i comizi, sembra quasi un documentario, no? Quasi scolora di fronte a quello che prometteva, invece che acquedotti, vinodotti, no? Chiara, nel tuo libro ci sono tanti casi nella storia degli ultimi decenni di mitomani nella vita reale, però noi che parliamo spesso di rete siamo conquistati dalla tua ricerca sui mitomani sui social network, perché il social media narcissist, come l'hai chiamato tu, è ormai personaggio immancabile. È ovunque, è ubiquo, diciamo, ha tutte le qualità, è mitomane, è narcisista, è ubiquo, riesce ad avere anche un sacco di tempo libero, no? Quindi anche questo è un bel modo di passare forse pomeriggi, non lo so, bisognerebbe chiedere a loro. E poi sono anche molto divertenti, perché poi se ti capita di incontrarne qualcuno in carne ed ossa, è divertente immaginare, anzi no, in questo caso non immaginare, ma proprio constatare la diversità, per cui se al sicuro dietro alla sua tastierina, al suo monitor, magari dal divano di casa, dalla scrivania dell'ufficio, è in grado di dire una serie di cose anche ai limiti, insomma, del reato penale, no? A volte, certo. Perché, ecco. Poi magari ti incontra ed è sudato dall'emozione, viene a salutarti, vuole stringerti la mano e tu già, insomma, non volevi prima, figurati adesso che c'ha tutta la mano sudata, no? Non vuole proprio essere avvicinata, quindi dice no grazie, guarda, non sono io, ti stai sbagliando, no? Non ci siamo mai visti e conosciuti neanche sui social, ed è insomma una figura molto, molto interessante, molto divertente, devo dire, se riesci a essere insomma distaccata abbastanza da non fare gli stessi errori che poi fanno in tanti, cioè offendersi, frignare, no? Perché poi c'è anche questo aspetto per cui il narcisista seriale, soprattutto social, ma non solo social, è anche quello che, come gli fai bu, si offende, piange, va a frignare, si lamenta e va a piangere dalla maestra o da mamma o da qualcun altro, no? C'è anche questa cosa che mi fa molto ridere, quando succede qualcosa, queste catene di solidarietà, no? Che si moltiplicano e che certe volte sono davvero surreali, perché non è quasi successo nulla, no? Che poi se stiamo sempre a manifestare solidarietà, è lo stesso problema che c'è quando diciamo che qualunque gesto o parola è sessismo e razzismo, no? Se tutto, certo, diventa qualcosa, niente lo è più, quindi si, verissimo, perde proprio il significato di una categoria, no? Di una definizione. È tutto una missione, insomma. Poi ognuno di noi ormai è al cargo battente. Sì, ma poi sotto secondo casa. Me un po' di narcisista e di mitomani in rete, un filino ce l'abbiamo tutti dentro, ma da certo, qualche parte. Contiamo i numeri di like, vogliamo su Twitter seguire più persone di quelle che ci seguono, eccetera. Daniele, anche tu, so che anche tu ti sei dilettato nella lettura. Sì, no, è un libro molto bello, anche perché racconta un sacco di storie da vari punti di vista, dal mio, ahimè, amatissimo allora Lance Armstrong, fino a giornalisti, mitomani, Jason Blair, storie americane straordinarie. Però siccome voglio fare un po' l'avvocato del diavolo, dico il punto su cui io non sono tanto d'accordo, perché anche del narcisismo dare la colpa, non è la tesi del libro, lo dico subito, però anche del narcisismo dare la colpa alla rete, secondo me, non è tanto giusto, perché anzi... cioè, voglio dire, se uno è maleducato, è un maleducato se va al bar, entra al bar ed è maleducato, entra su internet, è maleducato. Se uno è narciso, lo è al bar, lo è anche su internet. Ma su internet il narciso non funziona, perché mentre l'haters in qualche modo può avere un successo di breve periodo, può chiamare follower, può avere tanti retweet, il narciso è come un attore che a teatro recita troppo. Su internet viene smontato subito, quindi io non sono convinto che internet fomenti il Manuel Fantonismo che è in noi, anzi in un certo senso... Cioè smaschera il mitomane, secondo te? Sì, lo smaschera più velocemente che nella realtà, proprio perché fa ridere. È vero però che in un primo approccio al social network o alla rete viene un po' a tutti di Manuel Fantonizzare, non so se si può dire. Sì, però, dai. Però te ne accorgi subito che non funziona, e quindi anche chi ha la frizione del narcisismo che gli scappa, poi alla fine cerca di tornare indietro. Questo almeno io, Chiara, penso. Cosa ne pensi? No, ma è senz'altro è un'analisi che mi trova molto d'accordo, e poi mi viene da dire, ovviamente poi dipende dai momenti, ci sono anche nelle nostre vite sociali o meno, no? Ci sono, cioè lunedì siamo un po' più mitomani, il giovedì magari un po' più razionali e così, no? Ecco, quindi dipende molto. Devo dire che il vero, vero mitomane narcisista è quello impermeabile a qualunque feedback, quindi non si accorge neanche di quello che accade intorno a casa sua o al suo Twitter, alla sua timeline o quello che è. Devo dire che fino a un po' di tempo fa consideravo, a proposito del potere insomma dei social media e dei social network di tirarci fuori le parti più narcisistiche, quasi solo come una lente, no? In realtà se fino a un po' di tempo fa potevamo fare la ruota in famiglia o con gli amici fino a che questi non si stufavano, insomma adesso abbiamo potenzialmente un uditorio più numeroso, quindi ci possiamo provare più volte, poi magari ci si tirano sempre le pietre, perché insomma dopo un po' appunto è un po' come le oche di Lorenz, no? A forza di chiamarle, quelle si erano stufate e non gli rispondevano più, perché poi a un certo punto c'è l'effetto, è come a fuoco, al ladro, insomma a un certo punto noi siamo animali anche che si annoiano facilmente, quindi al settimo tentativo, no? Stimolare forzatamente una reazione siamo completamente distratti, quindi ci perdono come uditorio, no? In realtà poi qualche volta succede che c'è un meccanismo di rinforzo, poi se parliamo di scenari un po' più seri o rischiosi o gravi, insomma non quello che si vanta di avere avuto 280 fidanzate, ma insomma ecco, penso a questioni come i vaccini o il riscaldamento climatico, ecco, lì c'è un equilibrio molto strano e molto difficile anche da disegnare, perché è vero senz'altro che c'è questa reazione di dire vabbè basta, vedete un sacco di scemenze e ci sono tanti modi per smentire le frescacce e le balle, è vero pure che ci sono dei territori su cui è talmente difficile ridurre un discorso che è complesso a pezzi semplici da capire, che in realtà ci manteniamo, galleggiamo sempre in un grosso casino, insomma, in sintesi. Io non vedo l'ora di finire di leggerlo, perché non ho ancora avuto il tempo di arrivare fino in fondo, ma sto continuando a cercare di capire quanto e in quali cose pecco io. Non avrai altro Dio all'infuori di te, Fandango. Chiara Lalli, grazie per essere stata con noi, Chiara, grazie mille. Grazie a voi. Ciao. Grazie Chiara. Allora, con un pochino di ritardo, diamo la linea al traffico e poi, vabbè, un'ultima pagina musicale, dai, tra poco. Faircam Transport, il vostro partner per trasporti a carico completo o parziale. Faircam.com. Vi presento. YouTube. Ecco qua, sono arrivato sotto il palco, bicicletta, questa è quella che userò sul palco per andare da una parte all'altra, ecco. Vado al massimo. Vado con fedele. Ragazzi, manca una settimana. Io sono allo stesso tempo nervosissima, agitatissima, entusiasta e terrorizzata dalle centinaia di migliaia di persone che saranno a Modena. Non ho ancora capito come ci arriverò, cosa farò. Da domani ci penso, giuro che ci penso da domani. Ho veramente la preoccupazione più grande, ma anche la gioia più grande, aspettando questo Modena Park, Vasco che organizza un evento pazzesco. Allora, sarà la settimana di Vasco Rossi. Sono usciti un sacco di libri che parlano di lui, però io ho apprezzato molto il racconto Il giovane Vasco, la mia favola rock, perché c'è qualcuno che ha conosciuto Vasco molti anni fa, ma proprio perché erano ragazzini, e allora volevo almeno fare un saluto e chiedere qualcosa all'autore di questo libro, bravissimo collega, Marco Mangiarotti. Ciao Marco. Ciao Marta, ci andremo a piedi. Sì, ma ci andremo a piedi da Milano, perché sono terrorizzata, Marco, non lo so, guarda. Se la via francigena ci potrebbe aiutare. Se partiamo oggi forse. Marco, tu scrivi una cosa in questo libro, Vasco il genio più pigro del rock. Ah, che piacere che tu sia arrivata fino all'ultima pagina. Ah, ma guarda, ho fatto tutto un riassunto, l'ho letto per bene. Il genio più pigro del rock non è male, eh? Beh, è una cosa mia, mentre quasi tutto il resto è di Vasco, e questa è la cosa più importante. Ma guarda, questo è il libro ufficiale, diciamo, di questi libri che escono per Modena Rock, perché è la biografia di Vasco, questa è la verità. Perché quindi lui è l'autore. Lui. Cioè, l'ha scritto, l'hai raccolto l'ha raccontato lui, ecco. Io ho fatto 105 passi a proposito di come andremo indietro, perché era la cosa da fare, e ho cercato di fare in modo che tu chiudi gli occhi, insomma, ti sembra di sentirlo parlare e raccontare. Ho detto anche nei caratteri il suo racconto, quindi il libro è in chiaro, dei brevi scritti miei che sono gli incroci, no? In cui nel corso degli anni ci siamo sentiti, incontrati, e magari qualche notizia in più, perché sai, ricordare a più di 60 anni quello che facevi 50 anni prima non è semplicissimo. Infatti a me piace proprio che non sia la biografia fatta di date, di una cronologia, dico non siamo mica ragionieri, prendendo un po' in giro, perché lui ha fatto ragioneria contro voglia. È il suo racconto, è un racconto di fila, di un fiato, ironico. In questi tre pomeriggi passati insieme si rideva dall'inizio alla fine. E perché c'è complicità, perché io casualmente l'ho conosciuto appunto a radio, perché c'ero in Italia a Modena, facevo già giornalista, sono salito per fare la rubrica jazz, e quando finiva la mia rubrica iniziava Spazio Aperto Cantautori, e lui era già un gran figo, te lo posso dire io, perché me lo diceva anche la mia fidanzata di allora, occhi pazzeschi, perché tre righe sopra il genio più pigro ci sono due occhiali da Spider anni 60. Era un figo, ci sono anche delle foto, che ragazzi, era proprio un figo. Ascoltava cantautori, però ogni tanto telefonava a qualche ragazza, voleva sentire le sue canzoni. Lui già cantava in giro delle discoteche, tirava fuori la cassettina, proprio la cassettina, e la metteva. È stato, perdonami, tre secondi ancora, cose che non avevo mai capito, onestamente, Marta, di cui si è scritto anche poco. Chitarrista, voleva fare il chitarrista. Ha vissuto con la chitarra in mano praticamente fino a quando gliel'hanno tolta e ha iniziato a fare la rockstar sul palco. Cantautore, quattro album da cantautore proprio purissimo, rockautore, scelta del rock sotto, ma un rock classico padano suo, che non inseguiva le mode, insomma. Tante chiavi, secondo me, interessanti. Io ho imparato un sacco di cose da questo libro di Marco Mangiarotti, perché davvero ho scoperto tante cose del giovane Vasco che non conoscevo. Grazie Marco Mangiarotti, ce la faremo. Forse ci arriviamo. Grazie a Marco Mangiarotti, ciao Marco. Ciao. Chissà se ho anche un Daniele Bellasio da salutare. Ce l'ho ancora un Daniele Bellasio? Sai che è stato il mio primo concerto? Costrinsi mio papà a 13 anni ad accompagnarmi all'Arena Civica di Milano. E sai qual è la cosa bella di questo concerto di Modena? Che va anche nei cinema. Sì, Vasco, tu lo vai a vedere al cinema? Sì, perché Vasco ha postato da poco su Facebook l'elenco, credo siano tantissimi, sparsi per l'Italia. È bella questa cosa dell'evento multimediale. Peraltro lui è bravissimo anche nei clippini, che uno l'ha mostrato. Sì. Però il fatto di poter anche vedere, non puoi andare fino là, vabbè, in un cinema. Vengo io, arrivo io in bicicletta. Grazie Daniele, il prossimo ciao, sabato torno. Noi siamo ancora insieme. Torna questa settimana. Grazie Daniele Bellasio. Ringrazio anche Cristian Goldoni, Roberto Afrisani. Noi ci ritroviamo il prossimo sabato con il Sabato del Villaggio e con RadioTube.